Dialogo ventiduesimo. Raccontò Muaz bin Jabal: un giorno chiesi all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, o apostolo di Allah, qual è il livello massimo della fede? Mi rispose: è quello che raggiungi quando ami per amore di Allah, odi per amore di Allah e tieni occupata la lingua nel ricordo di Allah. Domandai: c'è dell'altro? Mi rispose, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, che tu desideri per gli altri ciò che desideri per te e non desideri per gli altri ciò che non desideri per te.